dovete far fare gli straordinari, lottarsi per il chiuso del lavoro. No, non so, cioè, tra l'altro non so se in quella presentazione che ho fatto ho creato più confusione che altro, ho dato magari qualche elemento di informazione in più, ma forse probabilmente è stato difficile cogliere il rapporto che c'era magari tra la mia cosa, le cose che dicevano gli altri, eccetera. Riprendiamo un attimino indietro il filo. Se avessi dovuto portare fino in fondo il discorso che ho fatto con la presentazione, avrei dovuto dire: guardate che mi sono accorto, lavorando in questo settore per 20 anni, eccetera, lavorando vuol dire starci dentro, insomma, cioè, la differenza della mia esperienza precedente, quando stavo, io ero un professore universitario, con tutti i privilegi del professore universitario, lo facevo in maniera particolare, per cui vabbè, insomma, chi di noi è finito in galera, non so, tanto, insomma, l'ho fatto bene, però ero privilegiato. E quando andavo avanti le fabbriche parlavo della loro condizione, non parlavo della mia condizione. Vabbè. Questa volta qua sto dentro le cose, perché tutte le cose che mi hanno fatto vedere non è che le ho viste in fotografia, sono andato a visitarle perché ho lavorato dentro, quindi sono andato a lavorare nei porti per capire la produttività di quella gru, per capire. Allora, la prima cosa che ho visto è stato un lavoro dipendente che cambiava, per esempio. Cioè, una prima cosa che ho visto che gli orari di lavoro, la struttura degli orari di lavoro era completamente diversa, perché un settore come quello, dove 24 ore su 24 è la regola generale, quindi non è che ci sono settori a turni di notte e settori no, no, del giornaliero, lì c'è un classico settore dove si lavora 24 ore su 24. Chiaramente un settore organizzato così, una delle prime cose che fa il datore di lavoro è quella di abolire il discorso degli straordinari, per esempio. Per cui tu trovi a vedere c'è la gente che lavora sabato e domenica normalmente, magari guadagna molto bene, ma lavora. Allora questo fatto di l'allungamento della giornata lavorativa sociale a me è parso, e poi dopo dal lavoro autonomo ancora molto di più, l'elemento, uno degli elementi fondamentali del post-fordismo, perché noi possiamo benissimo lamentarci che i salari sono bassi, ma è ancora peggio quando i salari, dico, aumentano un po', ma l'orario di lavoro, come dire, si triplica. Cioè, io quando guardo le statistiche sul part-time, e ogni tanto vedo, dico, part-time orario di fatto 7 ore, ma cosa vuol dire? Cioè, vuol dire che l'orario normale sono 14, se il part-time sono 7. Quindi questo elemento qui del prolungamento della giornata lavorativa nel lavoro dipendente è stato uno dei, credo, uno degli elementi più importanti, insomma, e tra l'altro colpisce di più i settori non operai, da cui il discorso sul disagio di ceto medio. Cioè, se voi guardate nelle aziende di oggi, chi veramente certe volte, molto spesso lavora di più, sono proprio di fasce dei quadri intermedi, sono gli operai, i quali sono ancora pagati a ora, gli altri non sono pagati a ora, sono pagati a produttività. Tu devi raggiungere un budget, ti do un budget, tu devi fare, sei responsabile delle vendite, benissimo, ma devi fare il mese prossimo 5% in più delle vendite, con le stesse risorse. Quelli lì cosa fanno? In genere sono donne, e per questo il lavoro diventa sempre più femminile, perché le donne buttano tutte se stesse, alla fine lavorano 14 ore al giorno, sabato, domenica, compreso. Quindi io a un certo punto ho cominciato a vedere che era normale trovare gente che lavorava anche il sabato e la domenica. L'ultimo mio amico che è venuto a trovarmi 3 giorni fa, un commerciale del trasporto ferroviario, mi diceva: sai, sono stato precettato perché c'era lo sciopero dei trasporti in Francia, e io sabato e domenica ho dovuto tornare veloce da Barcellona, essere qui precettato, capito, come un medico, perché c'è un'emergenza, devo intervenire, eccetera, e lunedì devo andare a Mosca. E gli dico: scusa, tu quante ore lavori in giornata? Hai idea? Non ne parliamo. 4 con 14. Allora, quindi allungamento della giornata lavorativa. Secondo elemento, rovesciamento totale del rapporto tra forza lavoro stabile e forza lavoro flessibile, perché un altro degli elementi caratteristici del settore che vi ho fatto vedere, che invece si stanno allargando a tutto, che il core manpower, cioè il 30%, e il 70% sono lavoratori flessibili. Ieri ho presentato il libretto un opuscolo che ho fatto a Parma, c'era un operaio metalmeccanico in pensione, ha detto: la mia fabbrica esiste ancora qua, la fabbrica dei trattori. Noi eravamo 800, adesso sono arrivati in 1100, ah, dico, la fabbrica che è cresciuta, sì, dice, però noi eravamo 800 a contratto di lavoro a tempo indeterminato, oggi sono 300 a contratto di lavoro a tempo indeterminato, gli altri 800 sono tutti a part-time, tutte queste forme flessibili, eccetera. Allora questo cosa mi porta a dire? Mi porta a dire che il problema della coalizione non è solo un problema dei lavoratori atipici, cioè è un problema, il problema della coalizione, quello della rappresentanza sindacale, eccetera, è un problema generalizzato al mondo del lavoro in quanto tale, dipendente. No? Negli Stati Uniti il tasso di sindacalizzazione è il 7%. E quindi quando voi fate il discorso, giustamente, o si fa il discorso, facciamo delle, come dire, delle iniziative, delle norme per cui favoriamo il passaggio dei lavori attori atipici al lavoro a tempo indeterminato, no? Le misure del governo, le misure del ministro Damiano, dico: guarda ministro, tu riesci a fare questa cosa nel settore pubblico, cioè nel settore pubblico tu apri i concorsi, tu decidi con un atto amministrativo che stabilizzi la gente, ma tu stabilizzi la gente in un rapporto privato, nell'economia, nel settore privato dove il sindacato non esiste. Perché questo è anche uno dei problemi molto semplici, io ci credo poco, perché sostanzialmente dico: ma chi è che poi fa applicare o guarda, cioè vigila sul rispetto degli accordi o delle norme che quello ti manda? Cioè il ministero può benissimo fare una norma che sta facendo, dopo due contratti o tre contratti di lavoro a tempo determinato tutto questo lo devi assumere, le industrie se ne spippano. Chi è che li va a controllare? Il ministero manda un ispettore a controllare. Quelle sono le cose di quotidianità di ogni giorno che doveva essere il sindacato, ma il sindacato cosa faceva di mestiere quando esisteva? Stava lì tutti i giorni a vedere: tu hai applicato il contratto nazionale, caro padrone, hai applicato l'integrativo, hai applicato, no? E voglio dire, è sempre stato così che in genere il padronato non applica i contratti. Una situazione come quella italiana, dove il 70% della forza lavoro dipendente ha dei contratti che sono scaduti, buonanotte. Quindi io riporto tutto sul discorso a una debolezza generale del lavoro, che è anche o soprattutto del lavoro dipendente. E quindi la tematica della destabilizzazione, al di là, diciamo, del desiderio soggettivo di ciascuno, invito a considerarla anche da questo punto di vista. La stabilizzazione, anche quella, è un problema di rapporti di forza, e siccome oggi i rapporti di forza sono ridotti in quel modo, bisogna sostanzialmente rimettere in moto, ovviamente, un processo di coalizione, un processo di forza, di coerenza. Ma è una situazione in cui dentro le fabbriche la gente ha paura, dentro gli uffici la gente ha paura, cioè ci troviamo in una situazione degli anni 50, bisogna evidentemente ricominciare da capo. Lo possiamo ricominciare con questi sindacati? Non lo so, loro diranno: perso la fiducia dei lavoratori, e molto spesso noi vediamo sostanzialmente anche tra di noi, noi i lavoratori autonomi si coalizzano, lui dice: ma scusa, perché non entriamo nel nido e facciamo qualcosa con loro? Per l'amor di Cielo, non parlando del sindacato, no? Quindi c'è anche la perdita di reputazione di un'istituzione che va messa in conto. Allora io non credo quindi che siano molto diversi i problemi della coalizione nel fordismo, diciamo, nel lavoro dipendente o nel lavoro autonomo, tranne una cosa importantissima, che è quella che diceva Lamberti, la rivendicazione, ed è giusta. Scusa, io sono un lavoratore autonomo, lascia stare questo lavoro economico, ne parliamo dopo. Beh, io con chi negozio? Cioè, a chi vado a rompere le scatole se voglio migliorare la mia condizione? Allora, c'è un rapporto individuale di lavoro. Cioè, sono da solo di fronte a un'organizzazione e quindi sono praticamente paralizzato. Posso scioperare? No, quegli altri non possono scioperare, quindi ammetto che il prelavoro dipendente ha una forza negoziale oggettiva maggiore, su questo non c'è dubbio, non, chiaramente avete ragione voi. Invece in questo altro caso, è come nel lavoro precario, flessibile, eccetera, tu effettivamente c'hai una... Tant'è che appunto ti viene in mente e dici: ma allora a questo punto lasciamo stare la rivendicazione. Cioè il processo rivendicativo, nel senso cui io protesto e tu alla fine mi devi dare qualcosa, questo non funziona più. Tu quindi devi sostanzialmente inventarti qualcosa che non passa attraverso una dinamica rivendicativa. E devo dire, è un po' la quadratura del cerchio. È la quadratura del cerchio. Allora è chiaro che io sono andato a vedere in giro cosa succede. 10 anni fa, quando scrivevamo il libro sul lavoro autonomo, avevo parlato, evocato le società di mutuo soccorso. Hanno detto, ma scusate, quando gli operai non avevano ancora un sindacato, la classe operaia non era ancora nata come coscienza, eccetera, eccetera. Questi qua, insomma, qualcosa facevano. Avevano costruito delle casse, di previdenza, cooperative di consumatori, insomma, si erano arrangiati, si erano difesi. Da qui era nato il movimento operaio, e del movimento operaio era nato il socialismo, e del socialismo il comunismo, i sindacati, eccetera, sono nati da lì. Da dove diavolo sono nate sta roba? Allora, è possibile oggi fare qualcosa di analogo o no? E naturalmente tutti mi ridevano dietro, no? Ecco, c'era una volta sono andato a fare la conferenza in Germania, c'era un giornalista della Tageszeitung, un giorno dopo mi ha preso in giro sul suo giornale, mi diceva, guarda, questo qua vuole fare il sindacato delle ditte individuali, ma per l'altro era un operaista, una volta ero diventato scemo, mi ha fatto un articolo pazzesco. È chiaro che quando io trovo invece delle esperienze come quelle americane, tutte fatte da donne, tutte messe insieme da donne, dove appunto ti dico, noi cominciamo a organizzarsi proprio in maniera, cioè, semplicissima, no? Cioè, noi siamo freelance, cosa abbiamo? Che problemi abbiamo i freelance? In quel caso lì speciale, specifico. Uno, c'hanno problemi che non hanno assistenza alla malattia. Zero, ma perché qui è cosa diverso? No, un po' diverso, ma quasi uguale. Secondo, però, dei problemi fiscali. Ci martellano sulle tasse, ci fanno pagare le tasse che non dobbiamo parlare. Il discorso su che una cosa sia impresa, un lavoratore autonomo, guarda che ha un prezzo. Cioè io devo pagare l'IRAP. L'IRAP è una tassa che va sulle imprese, che negli Stati Uniti si chiama UBT, Unified Business Tax. Dimmi perché, se io non sono un'impresa devo pagarla. E quando tu riesci a rimediare questo, è come se tu avessi fatto uno sciopero chiedendo 2% d'aumento dei salari e l'avessi vinto. Se io riesco a vincere questa battaglia sull'IRA, per me è come, dico, esattamente uguale, quindi diciamo, è una negoziazione che si fa su degli elementi di forza. Allora vedo che questi qua riescono a organizzarsi, un paese che ha 7% di sindacalizzazione, solo a New York sono in 56.000, riescono a negoziare queste cose, e le quattro cose che siano, fiscalità, malattia, c'è la terza cosa che hanno chiedono, cioè malattia, uffa, no, vabbè, la quarta cosa, no, la quarta cosa è cosa faccio se un committente non mi paga, e anche qui tu vedi subito la differenza. Un operaio che non viene pagato alla fine del mese, se va dal magistrato, gli darà ragione, no? Non ha difficoltà a farsi dare ragione. Qualche anno gli dà ragione, ma gli dà ragione. Se un committente come non mi paga, va bene, e io emetto una fattura, va bene? Come sapete, dopo poco devo pagare l'IVA su quella fattura. Quello non mi ha pagato. Se ho una fattura di 25.000 euro e io devo pagare 5.000 euro di IVA, quello non mi ha pagato, qualcuno può avere dei problemi, va bene. In quel caso lì cosa faccio se quello non mi paga? Vado dal magistrato, ottengo lo stesso, mi dà ragione allo stesso modo, e poi non posso vivere ricorrendo al magistrato in 2 minuti, no? Quindi ci sono una serie di problemi specifici che probabilmente mettendosi insieme, facendo massa critica, pian piano incominci. Ma proprio sono cose minime, tu mi dici la ricomposizione, buonanotte la ricomposizione, cioè, sono un futuro, radioso futuro, però un po' di tutela, cioè devo alzare la testa, devo alzare la cresta, santo cielo, e devono rispettarmi, e devono riconoscermi, e devono capire chi sono, devono darmi una legittimità, devo esistere, e a questo punto il ceto politico incomincia a tenerne conto. Cioè quando noi andiamo a parlare con ministri, eccetera, gli poniamo questi problemi, lo capisci subito che quello dentro di sé ti guarda e dice, ma tu, Quanti siete? Non sarebbe 300 persone. Ma io ho una fabbrica di 3.000 persone, do ragione a loro, voi siete 300 voti, per chi siete? Se vai lì e gli dice, no, noi guarda che siamo una coalizione grossa, quello incomincia a capire. Perché purtroppo la politica oggi scambia, no? Cos'è? Se lo è. Allora, direi, io preferisco appunto, come dire, battere queste strade elementari, senza una grande. Le cose che mi preoccupano, se volete, sono un altro, no? Lui diceva la conoscenza, ma non, la conoscenza non è merce, la competenza, ma le competenze sono merce, Conoscenza è una tua cosa, il tuo arricchimento, la tua struttura, il tuo essere, eccetera. Tu una parte di sta roba la metti sul mercato, che è la tua competenza. Quello che a me preoccupa, e questo è il discorso sulla natura dell'azienda, legata al discorso che tu fai sulla rendita, è che tu ti accorgi, se guardi dentro le aziende, che sempre di più le competenze contano meno. Cioè, come se il mercato delle competenze si esaurisse. No, e quindi la gente che sa fare le cose non è quella che fa carriera, parliamo di termini molto banali sostanzialmente, nuova forza di negoziazione. E quindi tu hai un'economia della conoscenza che viene esaltata enormemente, ti dicono che devi formarti, fare una formazione continua, ti dicono tutte queste cose, poi scopri che la dinamica delle imprese, legata molto alle cose che diceva Christian, è proprio questa. Insomma, io penso sempre al discorso degli uffici tecnici delle fabbriche chimiche e siderurgiche, no? Li hanno sciolti a un certo punto. L'ufficio tecnico era probabilmente la massima concentrazione di know-how che un'azienda aveva, perché era la memoria dell'impianto. Questi sciolgono queste cose, le buttano via. E quindi, tra l'altro, perché lo succede questo? Succede perché il tempo, come dire, su cui l'azienda costruisce una strategia si è accorciato sempre di più. È impressionante oggi, se tu guardate l'azienda e dici fa il business plan per 2 anni, 3 anni, uno ti dice ma 3 anni, chissà cosa succede tra 3 anni, capisci? Quindi questo accorciamento delle prospettive dell'azienda fa sì che questi dicano ma se io ho uno che ha un'alta competenza e ho bisogno di 5 anni perché sia uno ad altissima competenza, ma chi se ne frega, tanto 5 anni chissà se l'azienda esiste. Quindi questo accorciamento delle prospettive, del modo in cui l'azienda vede il proprio futuro, fa sì che le competenze vengano distrutte. A me mi interessa quello, l'ecaculo, non mi interessa lo specialista, capisci? E quindi questo, non so se la pubblica amministrazione è simile, ma incomincia ad essere simile. Purtroppo nelle aziende, questo dico, ci sono fiori di letteratura americana, non solo americana, su questa cosa, sta avvenendo. Allora è chiaro che il problema qui è il discorso se questo sistema è ancora un mercato delle competenze. Quindi se io, avendo una competenza che mi sono acquisita con anni di studio, di lavoro, di esperienza, eccetera eccetera, posso andare sul mercato e dire uè ragazzo, tu non mi paghi 800 euro al mese, mi paghi 2000 euro al mese, no? Quindi questo è un po' il discorso. Sul reddito, no, tra l'altro l'ultima cosa che tu dicevi, quella cosa dell'impresa non è soltanto legato all'IRAP, eccetera. L'impresa capitalistica è un lavoro, tu sfrutti il lavoro altrui perché questo lavoro altrui ti rende un reddito. Cioè non è lo stesso homo economicus di chi lavora per mantenersi la vita, capisci? Cioè me, insomma, io non sono un imprenditore, perché l'imprenditore è quello che sfrutta il lavoro altrui per un certo tipo di profitto. E magari bene che ce ne siano, voglio dire, perché abbiamo visto quando non ci sono gli imprenditori, però quando faccio un lavoro autonomo, io posso avere spirito imprenditoriale, devo darmi da fare, devo arrangiarmi, devo fare, soprattutto devo costruire relazioni, perché nella mia esperienza, cioè io non sarei riuscito assolutamente a sopravvivere, insomma, vengo licenziato a 45 anni. Ho 45 anni, 2 figli e ho insegnato storia tutta la vita. Dimmi tu come faccio a campare? Cioè, cosa faccio? Lezioni private di storia? Cioè, lezioni di tedesco potevo dare. Ma cioè, con le scuole che ci sono, io come privato mi danno 10 euro a lezione. Va bene? Ho capito. Mi sono messo a fare questo lavoro. Questo lavoro perché? Perché durante gli anni 60-70 questi operaisti erano della gente intelligente e avevano visto il futuro. Noi facciamo una rivista che si chiamava Primo Maggio, mi ricordo nel 1976 noi abbiamo pubblicato un articolo intitolato La storia del container, 1976, 31 anni prima che succedesse quella roba che vi ho fatto vedere, i porti, le navi, eccetera, e così via, 30 anni prima, io utilizzando questa nostra capacità di vedere il futuro sono andato sul mercato dicendo guardate che io ne so di queste cose qua. Però se non avessi avuto una rete di relazioni rappresentate in gran parte dai miei ex colleghi, cioè di professori universitari che mi conoscevano, eccetera, che mi hanno dato una mano, non facevo un passo. Io ho lavorato per 10 anni all'estero senza che nessuno in Italia mi riconoscesse quella competenza. lavorando con dei docenti che mi dicevano: boh, stiamo facendo uno studio in molti paesi, tu adesso mi fai per favore la parte Italia. Per 10 anni ho lavorato così. Ma se non avessi avuto quella rete delle relazioni, ero fregato, con tutte le competenze. Quindi, quando tu dici, no, la coalizione, eccetera, le relazioni sono anche una forza sul mercato, non solo una forza negoziale, ma sono proprio una forza sul mercato. Per finire, il discorso che dici tu sulla rete, ma hai perfettamente ragione, ovvio. La rete sta tra il Grande Fratello e gli hacker. Cioè, questa la rete è una battaglia, non so se alla fine perderemo anche quella, voglio dire.